ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Cathy rimase alla Grange 5 settimane, fino a Natale. Non fu una piccola selvaggia senza cappello quella che balzò in casa e si precipitò ad abbracciarci fino a farci mancare il fiato. Da un bel pony nero scese una personcina molto contegnosa, con un cappello di castoro ornato di piume sui riccioli castani e un lungo mantello di panno che era costretta a sollevare con entrambe le mani per poter camminare. Hindley la tirò su dal cavallino, esclamando tutto contento: «Cathy, ma sei una bellezza! Quasi non ti riconoscevo! Sembri una vera signora adesso!» Cathy si guardò intorno in cerca di Heathcliff. I signori Earnshaw aspettavano con ansia il momento in cui si sarebbero rivisti. Lo ritenevano fondamentale per capire, almeno in parte, quanto fossero ragionevoli le loro speranze di riuscire a separare i due amici. Non fu facile trovare Heathcliff sulle prime. Se era stato trascurato, se nessuno si era mai preso cura di lui prima dell'assenza di Catherine, ora era 10 volte peggio. Nessuno, a parte me, gli faceva mai la cortesia di dirgli che era uno sporcone, di ordinargli di lavarsi almeno una volta alla settimana, e i ragazzi della sua età raramente hanno un gusto spontaneo per l'acqua e sapone. Perciò, anche a non parlare dei suoi vestiti che indossava da 3 mesi nel fango e nella polvere e dei suoi folti capelli spettinati, la sua faccia e le sue mani erano velate da una patina scura ben poco incoraggiante. Aveva ben ragione di nascondersi dietro la panca nel vedere entrare in casa quella damigella splendente e graziosa, invece della spettinata copia carbone di se stesso che si aspettava di vedere. «Heathcliff non c'è?» domandò lei, sfilandosi i guanti e mettendo in mostra dita che l'inattività e la vita dentro casa avevano reso straordinariamente bianche. «Heathcliff, puoi venire avanti!» esclamò il signor Hindley, godendo della sconfitta del ragazzo e soddisfatto all'idea che fosse costretto a presentarsi con quell'aspetto selvaggio e ben poco invitante. «Puoi venire a dare il benvenuto alla signorina Catherine, come gli altri domestici!» Cathy, intravedendo dove era nascosto il suo amico, corse ad abbracciarlo e in un secondo gli diede 7-8 baci sulla guancia. Poi si fermò, fece un passo indietro e scoppiò a ridere. «Ma che faccia nera e arrabbiata!» esclamò. «Sembri buffo e cupo, ma è perché ho fatto l'abitudine a Edgar e Isabella Linton. Beh, Heathcliff, non ti ricordi più di me?» E aveva motivo di chiederglielo, perché i lineamenti di lui, incupiti dalla vergogna come dall'orgoglio, non tradivano alcuna emozione. «Stringile la mano, Heathcliff», disse condiscendente il signor Hindley. «Per una volta ti è permesso?» «No», rispose il ragazzo, ritrovando infine la voce. «Non starò qui a farmi ridere in faccia. Non lo sopporto». E avrebbe lasciato la compagnia se la signorina Cathy non l'avesse afferrato di nuovo. «Non intendevo ridere di te», disse. «Non ho potuto farne a meno, Heathcliff. Dammi la mano almeno. Perché sei così di malumore? È solo che avevi uno strano aspetto. Se ti lavi la faccia e ti pettini, starai benissimo. Ma sei così sporco!» Gettò un'occhiata preoccupata alle dita nere che aveva tra le sue e poi al suo vestito, che temeva non avesse guadagnato in bellezza dal contatto con quello di lui. «Potevi fare a meno di toccarmi», ribatté lui, seguendo il suo sguardo e ritirando bruscamente la mano. «Resterò sporco quanto mi pare. Mi piace essere sporco e voglio restare sporco». E con questo si lanciò a testa bassa fuori dalla stanza, tra l'ilarità dei padroni, e lasciando Catherine seriamente preoccupata, perché non riusciva a capire come le sue osservazioni avessero potuto provocare un tale scoppio di insofferenza. Io mi alzai e andai in cortile a cercarlo. Non era lontano. Lo trovai nella stalla, intento a lisciare il pelo lucido del nuovo pony e a dar da mangiare alle altre bestie, come d'abitudine. «Sbrigati, Heathcliff», gli dissi, «si sta così bene in cucina, e Joseph è di sopra. Sbrigati e lascia che ti vesta bene prima che la signorina Cathy esca dalla sua stanza. Così potrete sedervi insieme davanti al fuoco e fare una lunga chiacchierata fino all'ora di andare a letto». Lui continuò nel suo lavoro senza girare la testa verso di me. «Vieni, puoi venire, insomma», continuai. «C'è una tortina per ciascuno, mica di più. E a te ti ci vorrà una mezz'ora per sistemarti». Aspettai 5 minuti, ma non ricevendo alcuna risposta, me ne andai. Catherine cenò con il fratello e la cognata. Joseph e io dividemmo un pasto ben poco amichevole, condito con rimproveri da parte sua e impertinenze da parte mia. La torta e il formaggio di Heathcliff rimasero sul tavolo tutta la notte, per gli spiriti. Lui si trovò da lavorare fino alle 9, poi, muto e imbronciato, se ne andò in camera sua. Cathy rimase sveglia fino a tardi, avendo un'infinità di disposizioni da dare per ricevere degnamente i suoi nuovi amici, quei Linton della Grange che tanto l'avevano cambiata. Solo una volta venne in cucina per parlare con il suo vecchio amico, ma lui se n'era andato e lei si trattenne giusto il tempo per chiedere cosa gli era preso, poi tornò indietro. La mattina lui si alzò presto e, dato che era festa, portò il suo malumore sulla brughiera e non riapparve finché la famiglia non fu uscita per andare in chiesa. Sembrava che il digiuno e la riflessione gli avessero portato consiglio. Mi gironzolò attorno per un po'. Poi, facendosi coraggio, all'improvviso esclamò: «Nelly, rendimi presentabile. Ho deciso di comportarmi bene». «Era ora, Heathcliff», dissi. «Hai dato un bel dolore a Catherine. Credo che le dispiace perfino di essere tornata a casa. Sembri invidioso di lei, perché si curano di lei più che di te». L'idea di invidiare Catherine era incomprensibile per lui, ma quella di averla addolorata la capì benissimo. «L'ha detto lei? Che è addolorata?» chiese con aria molto seria. «Ha pianto quando le ho detto che eri andato via anche stamattina». «Beh, io ho pianto stanotte», ribatté, «e avevo più motivo di lei per piangere». «Sì, perché te ne eri andata a dormire con il cuore pieno di orgoglio e lo stomaco vuoto», gli dissi. «L'orgoglio non genera che amarezza. Ma bada, se ti vergogni di essere stato così permaloso, devi chiederle scusa quando torna. Devi farti avanti e darle un bacio e dirle, lo sai meglio di me che cosa devi dirle, ma fallo col cuore e non come se pensassi che lei si è trasformata in un'estranea solo perché è così ben vestita. E adesso, anche se devo preparare il pranzo, troverò il tempo per darti una ripulita e faremo in modo che Edgar Linton al tuo confronto sembri un bambolotto, cioè la cosa che è. Tu sei più giovane di lui, eppure bisogna ammettere che sei più alto e hai le spalle larghe il doppio delle sue. Potresti metterlo fuori combattimento in un batter d'occhio. Non ne sei convinto?» La faccia di Heathcliff si illuminò per un attimo, poi riprese la sua espressione grave e sospirò. «Ma Nelly, anche se lo mettessi fuori combattimento 20 volte... non per questo lui sarebbe meno bello e io di più. Come vorrei avere i capelli biondi e la pelle chiara ed essere ben vestito e ben educato e avere la prospettiva di diventare ricco come diventerà lui e piagnucolare chiamando la mamma per ogni minima cosa», aggiunsi io, «e tremare se un ragazzotto di paese ti mostra i pugni e stare chiuso in casa tutto il giorno per un acquazzone. Oh, Heathcliff, ti stai perdendo d'animo. Vieni davanti allo specchio e ti farò vedere che cos'è che dovresti desiderare. Le vedi queste 2 rughe fra gli occhi e queste sopracciglia folte che invece di disegnare un bell'arco s'affondano nel mezzo? E questi 2 demonietti neri che se ne stanno rintanati in fondo e non aprono mai le loro finestre arditamente, ma scintillano minacciosi dal loro nascondiglio come sentinelle del diavolo? Quel che devi volere e imparare a fare è spianare quelle rughe scontrose, aprire le palpebre con franchezza e trasformare i demoni in angeli innocenti e fiduciosi, che non conoscono il sospetto né il dubbio e non vedono che amici, là dove non sono sicuri di trovare nemici. In altre parole, devo desiderare i grandi occhi azzurri e la fronte liscia di Edgar Linton, rispose lui. È proprio quello che vorrei, ma volerli non servirà a procurarmeli. Un cuore buono ti aiuterà ad avere una bella faccia, ragazzo mio, continuai, anche se tu fossi un vero e proprio negro. E un cuore cattivo trasforma la faccia più bella in qualcosa di peggio della bruttezza. E ora che abbiamo finito di lavarci, di pettinarci e di fare il broncio, dimmi un po' se non pensi di essere piuttosto piacente. Beh, io lo penso proprio. Potresti essere un principe travestito. Chissà, magari tuo padre era l'imperatore della Cina e tua madre una regina indiana e tu potresti essere stato rapito da perfidi marinai che ti hanno portato in Inghilterra. Se fossi al tuo posto, mi farei un'alta opinione della mia origine. E il pensiero di quello che sarei mi darebbe il coraggio e la dignità per sopportare le prepotenze di un piccolo contadino. A forza di chiacchiere di questo genere, Heathcliff a poco perse il suo cipiglio e cominciò ad assumere un'espressione più amabile, quando d'un tratto la nostra conversazione fu interrotta da un rumore di ruote che risalivano la strada e entravano nel cortile. Corremmo, lui alla finestra e io alla porta, appena in tempo per vedere i due Linton scendere dalla carrozza di famiglia, imbacuccati in mantelli e pellicce, e gli Earnshaw smontare da cavallo. D'inverno andavano spesso in chiesa a cavallo. Esortai il mio compagno a sbrigarsi e a far vedere che era di buon umore e lui mi obbedì volentieri. Ma sfortuna volle che mentre apriva la porta per uscire dalla cucina, Hindley l'aprisse anche lui dall'altra parte. Si incontrarono e il padrone, irritato nel vederlo ripulito e allegro, o forse ansioso di mantenere la promessa fatta alla signora Linton, lo ricacciò bruscamente indietro e furioso ordinò a Joseph: «Tieni quello là fuori dalla stanza e mandalo in soffitta, finché non abbiamo finito di pranzare. Se lo lasciamo solo un minuto, ficcherà le dita nelle torte e ruberà la frutta». «No, signore», non potei evitare di rispondere, «non toccherà niente, non è il tipo. E penso che anche lui debba avere la sua parte di cose buone, come noi. Avrà la sua parte di botte, se lo sorprendo qui sotto un'altra volta prima di sera», gridò Hindley. «Vattene, vagabondo! Stai cercando di fare il bell'imbusto, eh? Aspetta che ti prenda per quei bei ricciolini e vedrai se non te li allungo un po'». «Sono già abbastanza lunghi così», osservò il signorino Linton sbirciando dalla soglia. «Mi chiedo se non gli facciano venire il mal di testa. È come la criniera di un puledro, quella che ha sugli occhi». Azzardò questa osservazione senza nessuna intenzione di offendere, ma la natura impetuosa di Heathcliff non era in grado di sopportare quella che sembrava una mancanza di rispetto da uno che già allora lui sembrava odiare come un rivale. Afferrò una terrina di composte di mele calda, la prima cosa che gli capitò a tiro, e la scagliò in pieno sulla faccia e sul collo di Edgar, il quale immediatamente diede inizio a una lamentazione che fece accorrere sul posto Isabella e Catherine. Il signor Hindley afferrò subito il colpevole e lo trasportò in camera sua, dove senza dubbio gli somministrò un forte rimedio per calmare i suoi bollenti spiriti, perché riapparve tutto rosso e trafelato. Io presi lo strofinaccio dei piatti e con un certo astio strofinai il naso e la bocca di Edgar, affermando che era la giusta punizione per essersi immischiato. Sua sorella cominciò a piagnucolare che voleva andare a casa e Cathy se ne rimase lì confusa e vergognandosi di tutti. «Non avresti dovuto parlargli», protestò rivolta a Linton. «Lui era di cattivo umore e adesso hai rovinato la vostra visita e lui verrà picchiato. Odio quando viene picchiato. Non riuscirò più a mangiare. Perché gli hai parlato, Edgar?» «Non gli ho parlato», singhiozzò il ragazzo, sfuggendo alle mie mani e finendo di pulirsi col suo fazzoletto di cambrì. «Ho promesso a mamma che non gli avrei rivolto la parola e non l'ho fatto». Beh, non piangere, replicò Catherine con disprezzo. Non ti ha mica ammazzato. Non combinare altri guai. Mio fratello sta arrivando. Sta zitto, smettila, Isabella. Per caso qualcuno ha fatto del male a te? Su, su, su, bambini, a tavola, esclamò Hindley tutto animato. Quella brutta bestia di un ragazzo mi ha proprio fatto passare il freddo. La prossima volta, signorino Edgar, fatti giustizia con i tuoi stessi pugni. Vedrai che appetito ti viene. La piccola compagnia ritrovò la serenità alla vista dell'invitante banchetto. La sera ci furono le danze. Cathy supplicò che lui venisse liberato, visto che Isabella Linton non aveva un cavaliere, ma le sue preghiere furono vane e fui incaricata io di supplire alla mancanza. Nell'eccitazione del ballo ci liberammo di ogni ombra di tristezza e tutto fu reso ancora più piacevole dall'arrivo della banda di Gimmerton. A Caterina piaceva, ma disse che era più bello stare a sentirla in cima alla scala e andò su al buio. Io la seguì. Di sotto chiusero la porta della sala e non si accorsero della nostra assenza, tanto era piena di gente. Lei non si fermò sopra la prima rampa, ma salì oltre, fino alla soffitta dove Heathcliff era rinchiuso, e lo chiamò. Lui, testardo, per un po' non volle risponderle, ma lei insistette e infine lo convinse a comunicare attraverso le assi. Lasciai quelle due povere creature a chiacchierare indisturbate, fino a quando immaginai che le canzoni stessero per terminare, per permettere ai cantori di prendere qualche rinfresco, e allora mi arrampicai su per avvisarla. Invece di trovarla fuori, sentii la sua voce provenire da dentro. La scimmietta era passata attraverso il lucernario di una soffitta lungo il tetto e poi nel lucernario dell'altra, e fu solo con estrema difficoltà che riuscì a persuaderla ad uscire. Quando uscì, Heathcliff venne con lei. Catherine insistette perché lo portassi giù in cucina. Scese, gli mise uno sgabello vicino al fuoco e gli offrì una quantità di cose buone, ma stava male, riuscì a mangiare ben poco e i miei tentativi di svagarlo furono sprecati. Appoggiò entrambi i gomiti sulle ginocchia e il mento sulle mani e rimase immerso in taciturna meditazione. Quando gli chiesi a che cosa pensava, mi rispose gravemente: «Sto cercando di stabilire come fare a ripagare Hindley. Non mi interessa quanto dovrò aspettare. Mi basta riuscirci. Spero solo che non muoia prima che io lo abbia ripagato. Vergogna, Heathcliff», gli dissi. «Spetta a Dio punire i malvagi. Noi dovremo imparare a perdonare. No. Per Dio non sarebbe una soddisfazione, per me sì», ribatté lui. «Vorrei solo sapere qual è il modo migliore. Lasciami stare, devo fare i miei piani. Quando penso a questo, non sto male». «Ma, signor Lockwood, sto dimenticando che questi racconti non possono interessarla». Così, interrompendosi, la governante si alzò e cominciò a riporre il suo cucito. Ma io mi sentivo incapace di muovermi dal focolare, non stavo affatto morendo dal sonno. «Torni a sedersi, signora Dean», esclamai. «Torni a sedersi per un'altra mezz'ora. L'orologio sta battendo le 11, signore. Non importa, non sono abituata ad andare a letto prima delle ore piccole. L'una o le due non è affatto tardi per una persona che rimane a letto fino alle 10. Non dovrebbe rimanere a letto fino alle 10. La parte migliore della mattinata se n'è già andata a quell'ora. Chi non ha svolto metà del lavoro quotidiano entro le 10 corre il rischio di lasciare anche l'altra metà non fatta. In ogni modo, signora Dean, si rimette a sedere, perché domani ho intenzione di prolungare la notte fino al pomeriggio. Prevedo che avrò un ostinato raffreddore, se non peggio». «Spero di no, signore. E allora, ascoltatemi». Era la voce di Anna Maria Guarnieri che leggeva Cime tempestose di Emily Bronte, tra l'altro è Mendelssohn nella colonna sonora di questo ciclo realizzato a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Jacopo De Bertoldi. La regia c'è Jonathan Zenti. La traduzione di Cime tempestose è di Margherita Giacobino. Questa era la quarta puntata del programma ad alta voce, è riascoltabile sul nuovo sito raiplayradio.it.